L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti, ben ritrovati anche agli ospiti di questa puntata. Due ospiti che già in passato sono stati con noi per parlare proprio di consumo di suolo e tutela del territorio, ovvero dei temi che affronteremo in questa puntata dell'altro pianeta. Si tratta di questioni quanto mai in agenda in questo periodo, è ovvio, abbiamo assistito a eventi drammatici in queste settimane che sono stati scatenati sì dal maltempo, ma acuiti, senza ombra di dubbio, dalla scarsa manutenzione del nostro territorio e da una cementificazione che è stata selvaggia e incauta in questi anni. Paolo Pileri, professore associato di pianificazione territoriale ambientale al Politecnico di Milano, ben ritrovato. Buongiorno a tutti, buongiorno a voi. E Fabio Terribile, professore di pedologia all'Università degli Studi di Napoli Federico II, presidente della Società Italiana di Pedologia. Benvenuto anche a lei. Grazie. Trascuriamo in questa puntata la nuova legge della Regione Lombardia sul consumo di suolo, sulla quale torneremo in una delle prossime puntate. Ci concentriamo invece sulla vostra partecipazione alla Due Giorni di Salviamo il Paesaggio. Salviamo il Paesaggio è il forum italiano dei movimenti per la terra e il paesaggio, e questa Due Giorni si è tenuta la settimana scorsa a Cassinetta di Lugagnano, che è un comune della provincia di Milano, che, se non sbaglio, Pileri, è stato il primo a impegnarsi per fermare il consumo di suolo in Italia. Sì, loro sono stati assolutamente gli apripista inventandosi un è possibile, cioè è possibile fare un piano a consumi zero. Questo è davvero importante, perché le amministrazioni credono e sono convinte che oggi il suolo serva assolutamente per finanziare tutta una serie di spese. In realtà Cassinetta, che è un piccolo comune, ha dimostrato che è possibile andare in un'altra direzione. Titolo quanto mai esplicito del convegno era Stop al consumo di suolo. L'incontro a cui avete preso parte invece aveva come obiettivo l'analisi della situazione italiana, misura, causa e impatti del consumo di suolo. Fabio Terribile, come le è parso questo incontro? È stato molto interessante, perché gli organizzatori, insomma, sono riusciti a mettere insieme il mondo scientifico con poi dopo ci sono stati anche tavoli rotonde riguardante, insomma, del mondo delle associazioni ambientaliste fino al mondo della politica. Ecco, sul lato degli impatti anche lì c'è stata una forte multidisciplinarietà, abbiamo ascoltato l'urbanista, il pianificatore, il pedologo, l'esperto di clima, quindi in qualche modo è stato molto interessante, proprio perché questi problemi o si affrontano tutti insieme o perdiamo tutti. Eh sì, e questo l'abbiamo ben capito, no? Direi ormai non dovrebbero più esserci dubbi, anche se poi bisogna anche studiare come far fronte a questo complesso sistema. Secondo lei, Pileri, invece, com'è andata? Anche lei soddisfatto? Ma allora direi che eravamo in una giornata, non so se ricordate, sabato, una pioggia torrenziale. Sì, Milano sott'acqua di nuovo, Milano, completamente. Completamente. Come dire, credo che fosse a tutti noi molto chiaro che c'era un legame molto forte tra acqua e suolo, e questo devo dire che, se non l'avevamo capito, ce l'ha fatto capire il clima di quel giorno. La giornata è andata, direi, abbastanza bene. Io sono sempre un pochettino, ho sempre qualche punta di insoddisfazione, nel senso che è da anni che ci diciamo queste cose. Ci hanno annunciato i parlamentari che erano presenti che riprenderà il dibattito all'ordine del giorno della Commissione Ambiente riguardante una delle proposte di legge contro i consumi di suolo. Questa è sicuramente una buona notizia. È chiaro che, come sempre dico dai miei studenti in su, insomma, siamo felici non perché partiamo per una maratona, ma perché arriviamo al traguardo della maratona, insomma. Quindi è tanti anni che continuiamo a partire, ma in nessuno di questi anni siamo arrivati. Quindi ora noi credo che dobbiamo incalzare chi decide e chi dal basso chiede che si decida su questa questione, dobbiamo incalzare in modo tale da ottenere un risultato, perché sennò, ahimè, tutto è vanificato. Giustamente siamo presi dalle notizie terribili dell'esondazione, ne abbiamo pienamente rispetto, però non ci dimentichiamo poi di andare a vedere che, laddove sono stati organizzati i fiumi e i territori circostanti in modo corretto, come lungo l'asta del Ticino, quella del parco, quella in alto, e dove quindi il fiume ha possibilità di esondare e non incontra abitati, perché è sempre stata vietata l'edificazione. Bene, lì straordinariamente la natura, la gestione corretta del suolo fanno il loro servizio perfettamente, senza un euro di costo al paese e alle tasche degli italiani, e senza una vittima. Allora dovremmo nello stesso tempo ringraziare i parchi e capire che dovremmo andare in quella direzione, ovvero fare parchi, fare azioni per tutelare abitati e cittadini attraverso questo sistema di inedificazione. Ma si può tornare indietro? Perché comunque ormai Milano è costruita, la Liguria è costruita, la Toscana è costruita e così via, tutte le regioni d'Italia. Insomma, si può fare un intervento che riduca i rischi perlomeno? Si possono fare interventi di messa in sicurezza in alcune aree, questo sicuramente, però bisogna mettere in agenda che bisogna fare questi e non altri. Non si può tornare indietro, si può non peggiorare la situazione. È evidente che se noi abbiamo, come abbiamo in questo momento, nella pancia dei comuni lombardi, 50.000 ettari di suoli che potrebbero essere urbanizzati, abbiamo ancora in Italia 32 autostrade che potrebbero essere costruite, abbiamo centri logistici sulla carta, abbiamo una valangata di consumi di suolo potenziali, e dai nostri studi, ma non solamente dai nostri di Politecnico, Università di Napoli, L'Aquila, tantissime università e centri di ricerca stanno dimostrando che sono eccessivi e soprattutto inutili, soprattutto nella parte residenziale produttiva. Beh, è chiaro che andremo incontro a un futuro in cui avremo sempre più acqua, sempre più problemi, sempre meno cibo, sempre più guasti e sempre più costi, perché dopo magari lo diremo, ogni ettaro urbanizzato costa 6.500 euro all'anno solo per la gestione delle acque. 6.500 euro all'anno non sono pochi, insomma. E certo, potremmo cambiare le cose, insomma, almeno non... Potremmo non peggiorarli, questo sicuramente. Abbiamo il dovere, io credo davvero, in questo momento di non peggiorare la situazione esistente e di cominciare a mettere in agenda tutta una serie di meccanismi mitigativi e migliorativi che sono possibili, perché lo stanno facendo tanti altri paesi. Professor Terribile, però si continua un po' a andare per le lentamente, insomma, no? Su questo percorso. Noi quando ci sentimmo più di un anno fa, voi avevate una proposta di legge che non riguardava solo il consumo di suolo. Siete andate avanti, la proposta è cresciuta, diciamo, adesso a un livello diverso, però dopo un anno siamo ancora qui. L'Europa è lenta, le regioni non ne parliamo. Insomma, è un percorso complesso e infinito, sembra. Sì, diciamo, va affrontato con molta razionalità, io direi. Io vorrei anzitutto aggiungere qualcosa che stavate dicendo, che è collegato anche a questo quesito che lei mi ha posto. Uno dei problemi, si può tornare indietro? In realtà uno dei nostri problemi più grandi chiaramente è la gestione dell'esistente, e per cercare ovviamente di mitigare i danni in qualche modo, mitigare i problemi a cui andremo ovviamente incontro per il cambio climatico. Ed è là un anello estremamente debole, perché tutti ci riempiamo la bocca della migliore urbanizzazione, migliore pianificazione, migliore questo e quell'altro, ma siamo in gravissimo ritardo sugli strumenti, sulle banche dati, perché poi alla fine la verità è che il territorio italiano, il suolo, e con la modifica del titolo quinto, le banche dati di fatto vedono un'enorme frammentazione. Ogni regione, se l'è fatta, se l'è fatta in autonomia, non è coordinata con le altre regioni, quindi abbiamo un quadro conoscitivo estremamente frammentato anche delle funzioni idrologiche, che sono quelle che poi determinano le alluvioni, e questo è un problema enorme di cui si parla pochissimo. Chiaro. Quindi insomma, diciamo che in assenza di questo studio che lei diceva, di mappe precise, di una conoscenza approfondita delle varie regioni e dei problemi che hanno, anche fare degli interventi risulta difficile. O magari si fa un intervento che non è risolutivo, ma è parziale. Il problema è questo, nessuno ne parla, tutti diciamo danno per assodato che abbiamo gli strumenti per operare, ma i pianificatori, anche i pianificatori sono soli, non hanno... diciamo la base informativa disponibile. Allora c'è un altro lavoro da fare, che è nascosto ma è importantissimo, quella di dotare il paese di coordinare gli sforzi fatti sui suoli è dotare il paese di una banca dati omogenea con un dettaglio spaziale sufficiente per i pianificatori. In questo senso rispondo alla sua domanda, cioè noi già ci sentimo un anno e mezzo fa il mondo della ricerca nel campo agricolo e forestale unito in questa associazione che si chiama ISSA, che unisce le 20 società scientifiche italiane che lavorano sul pezzo, praticamente hanno fatto una proposta di legge che oggi a distanza di un anno e mezzo è diventato un DDL, il DDL 1181, firmato da circa 38 senatori da quasi tutti gli schieramenti politici, che vuole dotare il paese proprio di questo, vuole cercare di costruire una trama coerente per cui questo suolo nascosto sotto i nostri piedi, di cui si parla solo quando arrivano le alluvioni o le frane, ecco, in qualche modo si cerca di fare ordini tra i tanti attori che lo governano, che sono tantissimi: il Ministero dell'Agricoltura, dell'Ambiente e delle Regioni, Conferenza Stato-Regioni, ovviamente le province, i comuni che lo consumano e così via, e su questa storia delle banche dati, perché mentre sul consumo di suolo oggi, grazie a telerilevamento, abbiamo un'informazione anche dettagliata, sui suoli molto meno. Ora, sul lato proprio della norma, questo DDL noi siamo ancora in attesa che sia calendarizzato, tra l'altro aiuterebbe sicuramente l'implementazione di quello del consumo di suolo, che invece ha un iter molto più avanzato, ma non è una legge quadro, riguarda un unico aspetto che è il limite al consumo di suolo. E quindi diciamo, ovviamente poi abbiamo bisogno di una legge quadro che tenga tutto insieme, perché il consumo di suolo è solo uno dei processi degradativi, c'è l'erosione, il frane, le alluvioni, perdite di sostanza organica, compattamento e quanto altro. In tutto questo scenario difficile c'è un altro problema, che a maggio, sempre rispondendo alla sua domanda, a maggio la Commissione europea, che aveva sul proprio tavolo una proposta di direttiva sul suolo, l'ha ritirata perché dopo 8 anni ha preso atto che non c'erano le condizioni politiche per portarla avanti. Neanche l'Europa, quindi. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini, stiamo parlando di consumo di suolo in questa puntata dell'Altro Pianeta. I nostri ospiti sono Paolo Pileri del Politecnico di Milano e Fabio Terribile, presidente della Società Italiana di Pedologia, che è la scienza che studia la natura e l'evoluzione, quindi chimico, fisico, biologica del terreno. Ci stava dicendo il professor Terribile che nemmeno la Commissione Europea è riuscita a portare avanti una direttiva comune sul suolo e che l'ha ritirata nel maggio scorso. Prego. È come c'è stata una cosa bella, anche se piccola in qualche modo, che è un grido di allarme dei ricercatori europei esperti di suolo. In 1400 da tutti i paesi dell'Unione Europea, dalle università, le accademie, gli enti di ricerca, abbiamo firmato una petizione a Renzi in qualità di Presidente del Consiglio Europeo, in cui gli chiediamo di mettere al centro, prima che chiuda ovviamente diciamo il semestre italiano, poter riposizionare l'esigenza di una direttiva suolo. E per fortuna il Parlamento, noi non abbiamo grandi amici al governo, ma il Parlamento è stato, in particolare il Senato, ha recepito questo grido di allarme. Speriamo che il Premier Renzi. Speriamo, sì, perché ormai il tempo corre, insomma, siamo quasi a dicembre. Comunque, certo, no, questo rende chiarissima la situazione, perché i comuni fanno commercio del loro così, territorio, perché ne hanno bisogno, perché pensano di non poter guadagnare altrimenti. Le regioni, lo Stato, l'Europa rinviano qualunque decisione, la situazione è chiaramente drammatica. Pileri, in Europa come va? Ha un'idea di come altri magari paesi si stiano muovendo? In Europa ci sono varie iniziative da parte dei singoli stati. A parte Bruxelles, che abbiamo detto che non va, no, insomma. Ci sono una serie di iniziative da parte degli stati molto differenziate, però più o meno tutte hanno preso ormai delle misure pragmatiche e anche molto serie per limitare i consumi di suolo. Noi siamo al palo da questo punto di vista. Direi che abbiamo davanti una vetrina di situazioni che potremmo non far altro che copiare e incollare e riportare anche noi all'interno del nostro ordinamento legislativo, innovando anche, voglio dire, il modo di fare pianificazione territoriale. Oggi credo che dobbiamo capire assolutamente che il suolo è una risorsa ambientale. Questo, guardate, che la nostra legge non lo riconosce. La nostra legge, il testo unico ambientale, fa una grandissima confusione e sbaglia nel definire il suolo. Che un tempo definiva come il suolo è suolo, poi l'ha tolto. Esattamente, così no, però non è che... lo definisce il suolo e lo definisce addirittura come se le infrastrutture sono suolo, cioè è veramente un errore gigantesco. Non ha migliorato affatto la situazione. No, siamo ancora messi molto male da questo, quindi abbiamo un problema definitorio e guardate che è importante, perché come... per usare una frase a effetto di Salvatore Settis, se non si conosce non si difende, e se non si difende qualcosa c'è solo il rischio di perderla. Quindi è chiaro che il suolo, se noi non lo conosciamo, non lo definiamo correttamente, beh, questo è un punto di grandissima vulnerabilità per tutte le politiche di tutela. E quindi questo è un punto su cui siamo straordinariamente indietro. L'altra questione è che questo accade anche in altri paesi europei, si deve pianificare non più seguendo, questo io lo dico da tempo, non più seguendo questa configurazione amministrativa per comuni in cui ognuno pianifica il suo senza guardare cosa accade appena a 100 metri di là, perché il suolo, l'acqua non si comportano secondo gli schemi dei perimetri comunali, si comportano secondo delle logiche ambientali che sono altrove. Bisogna davvero togliersi dal fango della dimensione amministrativa, assolutamente, perché abbiamo visto, lo continuiamo a vedere ogni autunno, io quest'anno mi ero portato addirittura avanti con i miei studenti, a settembre gli avevo già fatto vedere, guardate, quest'anno mi porto avanti e vi faccio vedere cosa accadrà. Perché è così, purtroppo, lo diciamo. Perché comunque poi c'è quel discorso dei cambiamenti climatici in atto, che è evidente, diciamo, ormai a chiunque, per cui fa anche prevedere in un certo senso quello che può accadere in un autunno molto piovoso. Esattamente, però, come dire, è triste continuare a essere profeti non ascoltati, e più facilmente si verrà, se mi passate un termine poco lusinghiero, identificati come dei portasfiga, insomma, in qualche modo. In realtà non è così, tutto il mondo sta dicendo che le cose stanno cambiando, ma soprattutto, come dicevamo anche a Cassinetta, attenzione, è cambiata di molto la capacità di risposta del territorio, non dobbiamo dimenticarci questa cosa. Cioè, tutto sommato, sabato ha piovuto come ha piovuto sempre, 200 mm, una cosa del genere. Sì, anche sulla Liguria leggevo delle stime che non erano peggiori di quelle degli anni, esatto, 70. Esatto, però la capacità di risposta oggi del territorio è terrificantemente peggiorata perché è aumentata l'urbanizzazione, e peggiorata perché si sono svuotate le aree agricole e quindi i nostri straordinari agricoltori non fanno più il mestiere che facevano prima. Allora, quindi, quando si realizza un'autostrada e si sfascia un comparto agricolo, beh, bisogna anche fare i conti col fatto che quel comparto agricolo non farà più manutenzione del territorio. E, insomma, sono danni, sono soldi, sono spesa pubblica. Cioè, davvero, adesso non voglio essere catastrofista, però oggi i progetti non possono essere più affrontati per microparti. Abbiamo necessità di lavorare per sistemi diversi, quindi rivedere l'urbanistica. Gli urbanisti non si sono mai confrontati con questa cosa, quindi hanno una responsabilità gigantesca. E pensare all'adattamento anche. E pensare all'adattamento, ma seriamente, mettendolo in cima all'agenda, vi prego, in cima all'agenda. Perché c'è l'esistente da preservare in un modo o in un altro, bisogna comunque... Certo, perché le nostre imprese continuano ad andare sott'acqua, parliamoci chiaro, cioè vuol dire è un danno economico anche per le imprese. Allora o capiamo che l'adattamento climatico e il suolo devono andare in cima alle agende, o se no è inutile che poi andiamo a cercare di aiutare le imprese con qualche soldo. E questo alle imprese, alle industrie, ma anche all'agricoltura, perché poi comunque i danni arrivano anche lì. Assolutamente, ai cittadini, all'agricoltura, alle imprese, tutti ricevono danni da questa mancanza di capacità di affrontare il problema. Professor Terribile, siamo in conclusione. Mi piacerebbe che riuscissimo, non so se c'è un modo, una scala, un metro, per far capire la differenza nelle capacità di... come si dirà, assorbimento forse, dell'acqua piovana, comunque di situazioni come quelle che abbiamo vissuto adesso, tra un suolo agricolo e un suolo invece cementificato. Sì, io risponderei con due osservazioni, una quella proprio degli idraulici, quindi non di noi, degli idraulici che lavorano a scala di bacino. La stessa pioggia, nella loro esperienza, in un bacino produce una piena, nell'altro uno quasi non se ne accorge diciamo, sul corso del fiume che ci sia stata la stessa pioggia. Perché questo? Perché in mezzo c'è il suolo. Il suolo che cos'è? È un insieme di sostanze organiche, minerali e tant'altro, ma una cosa importantissima che è il sistema dei pori, cioè dei vuoti nel suolo. Questi vuoti sono connessi, in questi vuoti può essere assorbita l'acqua, in questi vuoti può defluire acqua e andare più in profondità. Quindi se di colpo questi pori, queste strade, immaginate una città, siamo senza strade, è chiaro, la città muore. Però vorrei aggiungere in conclusione un aspetto che non abbiamo toccato ma che è fondamentale. Noi siamo qua a parlarci da tanto tempo, in questi anni, siamo qua ognuno nei rispettivi contesti, il professor Pileri a Politecnico, noi semmai nelle dipartimenti, facoltà di agraria e quant'altro, eppure c'è un problema fondamentale che è la consapevolezza delle persone su questo tema, che è bassissima. Il suolo viene calpestato ma nessuno ha cognizione, veramente l'uomo comune, della ricchezza che ha sotto quei piedi. Ecco, il 2015 le Nazioni Unite hanno definito che debba essere l'anno internazionale del suolo ed il 5 dicembre di ogni anno la giornata mondiale del suolo. Abbiamo bisogno di sfruttare queste occasioni per fare un grande piano, per aumentare la consapevolezza di questa risorsa, perché parte del problema è anche la solitudine di chi lavora sul suolo, perché la società non va in quelle direzioni. Allora anche i messaggi più ovvi e banali, tipo quella della non impermeabilizzazione, non consumare il suolo, diventano ovviamente un problema se non c'è una consapevolezza che parta dalle scuole e, diciamo, investa tutti i settori della società. Le chiedo rapidamente un'ultima cosa: c'è differenza tra suolo agricolo e suolo, diciamo così, naturale, boschi, o hanno la stessa capacità oppure no di assorbire? Guardi, tutte queste differenze sono assolutamente, non hanno una base. Il suolo è di fatto una definizione codificata dal Parlamento europeo, e che sia agricolo, forestale, naturale o quant'altro, sono dei qualificativi che secondo me mettono anche un attimo fuori strada. Quello che c'è è l'uso del suolo, che un suolo può essere lo stesso suolo, può essere usato per uno scopo agricolo, per uno scopo forestale, può essere appunto lasciato, abbandonato in qualche modo e allora considerato naturale, se nel senso di non utilizzato per scopi agricoli e forestali, ma il suolo è sempre quello, si è formato semmai in 10.000 anni di storia. Il modo in cui noi lo utilizziamo riguarda più l'esigenza del singolo agricoltore, del comune, di qualcuno che lo gestisce, ma il suo potenziale sta in quei 10.000 anni in cui si è formato e noi ce ne dobbiamo prendere cura. Quindi questi qualificativi io trovo che molto spesso determinano più confusione che altro. Quindi no, da un punto di vista la definizione del Parlamento europeo, che diciamo rimane un punto di riferimento, siamo più noi in Italia che siamo fuori da ogni grazia di Dio con la definizione citata prima da Pileri della 152. Certo, delle infrastrutture che ci stanno sopra invece che di quello che noi calpestiamo. Dunque io ringrazio Paolo Pileri del Politecnico di Milano, Fabio Terribile, Università degli Studi di Napoli, Federico II. Ci diamo appuntamento più o meno al 5 di dicembre, allora facciamo un'altra puntata in cui parliamo di consumo di suolo in occasione di questa giornata internazionale, vi va? Sì, questo sarebbe bellissimo. Il 5 dicembre è la giornata mondiale del suolo, in Italia sarà celebrata ad Alghero con un evento, un convegno, quindi faccio pure questa piccola pubblicità, è un momento importante, quindi sì, sicuramente ci saremo. Proviamoci. Tutti coi piedi per terra. Grazie. Per terra. Grazie a tutti, alla prossima. Buongiorno, grazie a lei.